ricordi. Hai fatto qualche risata anche tu, dai. Vabbè, dai, piano piano le cose si fanno. Tutti abbiamo cominciato così. Vero, Fra? Allora, Giovanni, così io. Sempre bene, ti ascolto, ti sento sempre bene. Vuoi venire e ti offro un caffè? Grazie, ma l'abbiamo mangiato, bevuto alla grande. Adesso sono la signora, la campagnata per digerire. Come ricevuto? Grazie ancora. Ha pagato, va bene. Io sto ritornando a te, a perderlo a Franco, Questa è in qualche zona un po' tosta. Anch'io ti sto perdendo, Adesso pettine lì, sei lì, magari Daniele, da dove sei tu e cominci a perderlo. Magari lui sa che a me, ma io lui non lo so. Se fa la pena il dito quando smette di modulare, basta. Va bene, dai, facciamo di campo di voi subito. Adesso l'ho copiato anch'io. Adesso sono praticamente alla rotonda, vai. Chiappa. Sta scendendo giù a Platamone. Sì, abbiamo andato lì al primo. Sarebbe il settimo pezzo. Al primo posto. Chiappa, sì, ho capito. Va bene. Domenica oggi. Glielo credo. Quello è sempre pieno. Capo. No, Agostino già lavora sempre bene. Va bene così, meglio così. Giovanna, riprendi. Ecco, meno male ha cambiato anche il vento, sembra che ha smesso un po' questo vento, e sta un po' meglio, via. Stava andando il vento prima. Caspita, pensavo che si stava rovinando la giornata. Infatti, ieri era un po' fredda l'aria, Come si sollevava un pochettino di vento era anche ghiacciata. Aia, vabbè. Ti tocca, Fra. Io per fortuna, diciamo così, non le faccio più. Meglio così. Poi al buio ci hanno paura. Se non hanno la luce accesa. In diretta passi. Vabbè, anche quello ci vuole. Avanti, Giovanni. E mi sposto, visto che stiamo facendo anche delle prove, provo a passare sulla vettura a vedere se riesco. Capo, dalla macchina? Positivo. Capo. Così arrivi bene come sei comunque. No, prova dalla macchina a vedere. Sono tornato? Si faccio più nessuno. Sì, un segnale di 9, radio 5. Faccio più nessuno, sì. Chi è che vuole entrare? Avanti. Danilo. Ciao Danilo, ben ascoltato, Franco da Sorso. Ciao Franco, ogni tanto ci sentiamo. No, mi sono fatto un giro nei canali alti, i propagazioni si stanno nuovamente riaprendo. In compagnia di Franco di Sassari e Barra Mobile. Sì, ci stavamo ascoltando poco fa, stiamo facendo un questo insieme. C'è anche Giovanni da Platamona. Sì, Giovanni ha lasciato la casa, dice che prendeva la macchina, a fare la prova della macchina. Giovanni, ci sei? Capo, sì, si è baciato il segnale. La radio sembra sempre la stessa. Capo, dai, io ci dovresti mettere un amplificato lì. No, io va bene, è chiara la modulazione. Io ti ascolto bene comunque, anche se è basso la radio. Franco, Danilo, ti ha rilanciato Franco. Solo che il fatto adesso non l'ho sentito, ho sentito solamente il bip bip, però a lui non l'ho sentito per niente. Se l'ha immaginato. Probabilmente non lo senti, perché non hai risposto. Ho sentito il bip, però a lui non l'ho sentito per niente. Franco, lo senti tu a Danilo? Capo. Danilo è in un buco, deve essere, dov'è? Così è Danilo. Sembra in campagna. Capo. Non so se è la tua quell'antenna che ho visto nel cavalcavia salendo a Sassari. Sì, sono le mie. Capo, allora sei in un buco proprio. Il fatto è che li ho anche alzate, quello è. Capo. Vabbè, dai. Però già con la verticale esci bene. Esci. Avanti Giovanni. Danilo, ti sta chiamando Giovanni. Dimmi Giovanni. Sì, ma sento il QRM più forte di te. sento il QRM molto più forte di te, ti sento però molto basso. Oh, scusate un attimo, oh, mi devo allontanare, se ci siete poi dai riprendo. Ciao Fra, se non ci sentiamo. Ciao Franco, ciao Danilo e ciao Giovanni, se ci siete riprendo dopo, per la gente. Ok, meno ti imbriagami, Giorgio, dimentica che ci hai attaccato la radio. Comunque al canale 7 ci sono gli spagnoli che stanno parlando. Gara, gara, aspetta che controllo un secondo, perché c'è anche un'attivazione al 49SB, l'ho vista adesso, su faccia di video. Dai, proviamo a farci un giro prima sul canale 7, a 27.035 e dopo ci mettiamo d'accordo e andiamo al 40, dai. Papà. Chi è? Sono io. E tu chi sei? posso aver re, il king, ovvero il messia, colui che era, che è e che sarà sempre. Cavagara. E tu chi sei? Daniele da questa parte, buonasera. Buonasera, chi sei? Non ho capito. Daniele, chi sei, Franco? Daniele, motrice pazza? Cosa? No. Ah, sei un altro Daniele, ho capito. Andare. Niente, io porto fuori già questa parte. Papa di Roma, dai, buonasera, mi sentito. Arriva, siamo portatore, salì, arrivo. Ciao Eugenio. Una voglia che c'ha di sì, alla grande. Ma sei Eugenio? Per forza, sono chi è il re di portatore? Sì, io, no? Sei Eugenio, per forza. Ehi, Eugenio. Ciao, non ti ricordi più di me, bravo, sì. Daniele, ci siamo già sentiti, sì. A voglia. Io sto usando una lampiretta adesso. Magari quello un po' ti porta fuori allineamento. Perché la modulazione non è la sua solita. No, sto facendo girare un po' di radio qua oggi, perché sennò si stanno inchiodando, dai, capito? Ah, andavo. E la modulazione infatti non ti ho riconosciuto per quello. L'intonazione è bella, la carità, bellissima, bella, bella amplificata, però non era qua subita. Andate, non c'è nessun altro? C'era Danilo, però non so dove sia finito. Magari sta giro vagando per fare qualche collegamento. Cavagara, va bene. Aspetta, faccio il grande, Danilo, è un sì. Fai pure. Danilo, non l'ho mai sentito. E adesso mi riconosci, Eugenio? Daniele, perché sto facendo così basso? Sia di segnale che di radio. Aspetta, questo dovrebbe scaldare ancora, Eugenio. Basso, sono basso, perché quella è un'altra cuba. Lì c'avevo un aiutino. Ah, ecco. Sei sceso da Santiago 7 e sei sceso a Santiago 3. Lo so. Vabbè, non stai rogando tutto il fatto ancora questo, è modulazione, capito? Era acceso sino a poco fa, un'oretta fa, adesso dovrei di nuovo riprendersi, diciamo. Comunque hai dei buoni picchi positivi. Meglio così, dai, tutto funge. Cavagara, bene veda, cavolo, quello dà un grosso aiuto sia in ricezione che in trasmissione. Ehi. Sì, chi è? Avanti. Dove sei? Ah, ok, sempre dritto non puoi sbagliare, sempre dritto, poi ci sono le indicazioni in porto e proprio l'imbarcazione, le indicazioni per l'imbarco, ok, mi hai sentito? Ok, gira a sinistra, perfetto, non entri in città, fa la circonvalazione. Sì, ok, perfetto, va bene, ci sentiamo, se hai qualche problema sul CAI ci c'è sempre qualcuno. Ok, va bene, non lo senti più? No, è negativo, non... all'inizio sì, però non sapevo se era roba di propagazione, ok, poi l'ho perso del tutto. No, era uno credo con il camper che chiedeva informazioni per l'imbarco. Da come stai parlando l'ho intuito che qualcuno voleva qualche indicazione per l'imbarco. Va bene. Salito il segnale adesso, OG. No, negativo, sopra 3. Sempre a 3. Adesso non so se fai vedere una cosa qua. Guarda adesso, OG. Prova, schiaccia. Guarda un po', 1, 2, 3, la peppina per il caffè. No, negativo. 3 fissi e 5 modulati. Vabbè, mi tengo il 3 in pagella allora. Ma ti ascolto benissimo, non è quel problema. Ti ascolto benissimo. E io lì, da te come vado? fai un passaggio più lungo, sai che sei 7 di segnale con picchi di 8, fai vedere. Ah, andava bene. Ricordami la zona. Sì, UJ, fai così, fai 6 abbondanti, dai, qua più 7 a picchi di 8, dai, per i picchi positivi lo stesso. Qua sono zona Via d'Italia alta, vicino al pronto soccorso. Ah, ok, va benissimo. Va benissimo. Sì, sto usando pure la Grand Plain io, un quarto d'ora la Grand Plain. Casa mi ha detto addio e ha preso il volo. Quindi non hai neanche un'antenna prestantissima, dai, hai la Grand Prix, vabbè, che già va bene, comunque. Sì, penso sì, UJ, cavolo, state sentendo dappertutto. Va bene, anche con ultimi segnali, dai, pensavo peggio. Per quello che mi interessa la modulazione, guarda, mi avevo bello chiaro. Poi il segnale attacco lì la stufa a caminetto e via dicendo e arriva dappertutto. E la maggia così va bene, senza essere accompagnato va benissimo, a voglia. Questi sto usando i watt suoi, capito? Passo liscio come l'olio. Va bene, meglio così, dai. Ma i watt quanto stai uscendo? Con 5 watt? Adesso sono 10 oggi, è salito a 10 come stava scaldando. Ah, 10 watt, va benissimo, una voglia. Dai, ci possiamo lamentare. Sono cercato anche dai parati, io sono quello più basso e quindi... Per com'è, va più che bene, anche se io poi porto Torres, ce l'ho di fronte, capito, alla fin fine. La zona industriale la becco in pieno, ma... Con tutti i palazzi intorno mi fanno d'ombra. No, ho capito, il palazzo più basso degli altri, che ti fanno ombra. Cava, se no se salgo sui palazzi alti qua vedo tutto, diciamo, Porto Torres, Patagonia, Sintino, tutta la costa si vede, capito. No, è una posizione buona. Vabbè, Daniele, io ti devo lasciare che devo uscire, che devo andare al lavoro. Ma sentiamo le prossimine. Ciao, buona serata, saluto agli altri quando li senti. Ehi, OJ, buon proseguimento e buon trabatto e buon tutto, dai. Sarà fatto, come sento qualcuno già mi ricontraccambio i tuoi saluti, dai. Alle prossimine appena coincide, OJ. Ciao Dani, ciao, tutto alle prossime, ciao, alla prossima, ciao OJ. Qualcuno? Attenzione 10, c'è qualcuno? Hola? Attento 10? Attenzione 10, c'è qualcuno? Vai Dani. Adesso sono con la cubica, dimmi come sono. Segnale 9 più 5 da me, vabbè, adesso dove è orientata quell'antenna? Più o meno l'ho puntata verso lì, ma bisogna centrarla giusta. Quella è abbastanza direttiva, se non la giri bene, non penso che ci abbia più di 20-30 gradi di apertura quell'antenna. Invece adesso sono con la verticale. La verticale si è salita a 9 più 15. Quella va bene a lunga distanza, qua vicino non so cosa riesce a fare, però magari se riesce a orientarla giusta vicino, magari ci riesce. Puntata giusta vuole. Vabbè, dai. Comunque già spinge forte. Già mi hanno sentito oggi. Sì, quella lunga distanza, quella fa male, nel senso che c'è un guadagno impressionante rispetto alla ma cosa c'è, che antenna c'hai tu in verticale? Quella che è rimasta autocostruita. Sì, ma quella hai detto tu, 16 metri di palo c'hai. No, 12 metri aspetta. Dal palo, dalla base del palo, fino ad arrivare alla punta. distanza dall'antenna sono 12 metri. Ma compresa l'antenna tu parli? Sì, in totale. Compreso l'ingombro dell'antenna, dico, il palo di per sé quanto è alto? Il palo è 5 metri, 4,90, più 7 metri di antenna. E qui c'è il carrello? No, sulla verticale no. No, io sto parlando della cubica, il palo della cubica, quanto è alto quello lì? Il palo della cubica sono 4 metri di telescopico, più 2 metri di fisso che continuano a salire. Ho capito, 18 metri, come fa con un palo così sottile, senza tiranti a portare, non piegare? No, c'ho anche un palo telescopico, però a tubo tondo, tutto quanto telescopico, 18 metri a lunga. Ma devi metterci i tiranti, cioè è inconcepibile, se no. No, su quello sì, su quello lì per volte i tiranti ci vogliono, se no non sai come inizia a ballare. Già un grido. No, io adesso devo scendere giù da voi, da cosa? Da Luciano ne prendo uno scatolare da 10, 100 a 100, 100%, e poi li faccio il carrello da 120, infilato dentro, prendo due, lo faccio tagliare in due parti, 2 più 2, e così arrivo a 4 metri, poi sopra ci metto il carrello, c'è un altro metro e mezzo di carrello, e poi altri 4 metri di tubo, quelli tipo tubo innocenti, dai, quelli grossi, e lì dovrò mettere l'antenna, la cubica, quella per i, se ne hai 20 metri arrivo, 10, 15 e 20, e poi mi ha detto Marco che mi spiega come fare il discorso delle VLU, cioè scusa delle VLU, dei sementi. Ah, no, però il 120 dentro il 100 ci parla un pochino, non è quasi preciso. Ma poi li metto tipo cuscinetti, come mai balla? Mi ha detto che non dovrebbe ballare. Allora, il 120, dal 120 a 0 devi toglierne 6 mm e arrivi a 11,4, fai 11,3 pure, perché c'è anche il tanto della saldatura, sono 11,3, da 10 a 11,3 sono 1 cm e 3 mm, 13 mm di gioco. Ma là bisogna fargli dei cuscinetti, cioè di quelli rulli tipo il... Cioè, presente quelli che usano per i carrelli, non i carrelli, scusami, i cancelli, quelli scorrevoli. Lo puoi fare così, oppure li metti i cuscinetti in teflon, da una base all'altra, anzi in quattro lati ti converrebbe a quel punto. Bisogna studiarlo bene tutto il discorso, fatto bene, o mettere dei rulli di pieno, dal pieno, e saldati, fagli una specie di U e li metti questo rullo in modo che non balli. Intanto vuole sia per tutta la lunghezza, da una parte all'altra, se no come sali inizia a oscillare al centro, e balla al centro. Cosa li sa fare, come si chiama? Fabrizio già li sa fare questi cosi, questi telescopici così. Sì, l'ho visto quello che ha fatto, ma già li so fare anche io, in officina, a dove quello facciamo, già ci arrangiamo anche noi. Io lo so che voi già non sapete fare di macchine da zero. Quando veniva tuo padre da noi a prendere la mia, mi diceva, la mia da 8 voglio me, che la devo trovare a Cantamassendo, a fare la macchina da zero, uglia. Noi facciamo un sacco di ricostruzione, serbatoi, tutto, anche server che abbiamo costruito, mio fratello, quel carrello, quella la mela, ma saldare l'unico problema, devo dare le misure giuste del carrello, ci vogliono le misure di quanto deve essere alto, nel senso le staffe, quando metti il coso, dove devi mettere i cuscinetti, le piatte, quelle cose lì, se non hai le misure, non è, puoi essere il più bravo del mondo, ma ci vuole uno che ti dia le misure. Comunque fare un innetto scorrevole non è nessun problema. Se vedi come ho fatto il camper io, non so se te l'ho fatto vedere, i sedili ribaltabili con tutti gli snodi, ed era un sedile, un Ducato con i sedili fissi, li ho fatti blocchi, e non penso che sia più facile che fare un carrello a scorrimento. Se non sbaglio era il furgoncino camperizzato, quello lì era, giusto? Ho fatto vedere quel Ducato bianco camperizzato. Quello che mi avevi fatto vedere in officina, dove c'è la buca? Aspetta, noi ne facciamo, ne abbiamo fatto una decina, quello mio personale sto parlando, quello bianco, non quelli altri di quella persona, vabbè non faccio il nome, di Vanni, diciamo solo il nome. Che è quello lì? Quello tuo, che stavi cercando la valvola del serbatoio degli acque grigie, la valvola esterna, quella di scarico. La valvola del scarico? Non lo so, ma non è che tu hai visto lì, a che colore era? Allora era zero il furgone, piano piano telecamperizzato. E il colore era bianco. Se non sbaglio era un Iveco, se non sbaglio. No, no, no, hai visto il mio, era nero, che era un Ducato vecchio muso, diciamo, del 2002. E io l'ho trasformato Ducato modello 2005-2006. E gli ho messo tutto il muso, il muso che me l'ha dato giù Batteanino di un'ambulanza, gli ho messo i fari più larghi, i parafanghi, il cofano, eccetera, eccetera. E sì, sì, è quello mio, quello che poi è diventato bianco. Ma tu finito non l'hai visto? No, finito del tutto no. Però me lo posso solamente immaginare, perché tu mi avevi fatto vedere che eri ancora a metà del lavoro e stavo facendo una bella cosa. Infatti ti avevo detto, se questa qua esce una bomba, perché col camper, dopo non puoi entrare col campo e puoi entrare con questo. Sì, no, no, te lo dico, no, perché l'ho fatto io, è uscito bello. Ho tutti i rivestimenti, poi il bagno arredato, bello, non perché, ti ripeto, non è per essere presuntuoso, ma chi l'ha visto è stato molto soddisfatto, nel senso che cavolo, veramente è bello. Poi con l'impianto elettrico, tutti i pannelli di controllo, c'ha tutte le alimentazioni, eccetera, eccetera. E ne ho tolto il divisorio, siccome era chiuso la parete tra abitacolo e cellula, l'ho chiuso, l'ho tagliato a metà, se Dio lo può ribaltare, può entrare avanti, eccetera, eccetera. No, quando ho capitizzato lo faccio vedere. Ebbene, no, perché facciamo anche gli altri, quelli allestiti, diciamo, per altre persone, però sono camperizzati, nel senso, sono nati come veicoli, autovetture, trasporto persone, e poi li trasformiamo noi. Però questo è già omologato, autoveicolo uso speciale, laboratorio mobile, infatti per quello posso andare dove voglio, come una macchina, non ho limitazioni, io l'ho preso per quel motivo lì. Ok, di nuovo a te, Dani, prendi. Sì, allora c'è quello lì, Robe. No, comunque già sono carini quelli lì, solo che sono ben compatti e tutto quanto richiuso in un punto hai. Allora, se c'hai figli non te ne vai nulla, però se sei con due persone va benissimo, perché io ho un bagno dietro enorme, non so se te l'ho fatto vedere, il bagno finito è bellissimo, grande. Il divano si trasforma in un doppio letto, rimane un divano fisso, poi lo sfili e diventa un doppio letto, una piatta e mezzo, dai. Non hai problemi di niente. C'è la porta scorrevole per entrare nel bagno, c'ho tutti il frigo a compressore sotto il letto, di quelli silenziosissimi che neanche si sentono, di nuova ultima generazione, e basta. No, ho fatto tutto un piccolo lavandino, se ti vuoi fare i lavare i denti, lavarti la faccia, di quelli ribaltabili, e boh, una grande doccia, il WC e basta, nient'altro di più, qualche sportello per mettere gli indumenti, la roba, eccetera, eccetera. E ti posso dire, va alla grande. E a voglia che va. No, già me lo ricordo, c'aveva il bagno dietro a destra. Il bagno dietro a destra o a sinistra? Boh, vabbè. Comunque dietro la poltrona ribaltabile era davanti appena entri, giusto? Sì, sì, sì, hai visto bene. Dietro in coda c'ho il bagno con la doccia, a sinistra la doccia e a destra il WC. Poi c'è il divanetto e poi c'è il passaggio per passare dalla cellula all'abitacolo, al posto di guida. No, ma ne ho fatto tutte le cose indispensabili, niente di cose superflue, per dire, il riscaldamento non me l'ha fatto in nuda. Volendo posso mettere quelli, mi stanno piazzando tante, anche domani mi piazzare uno a gasolio piccolino, che sono una bomba, ti danno un calo, ma tanto io d'inverno non ci vado mai e non me ne frega niente. E va benissimo. Poi come entri dietro nella doccia c'è il tubo che esce, anziché entrare e sporcare tutto da fuori, ti lavi i piedi, c'è il tubo con lo struzzino, col soffione, ti avevo fatto proprio le cose minime e indispensabili, senza munire tutte cose strane, che in molti camper c'è cose che la maggior parte sono inutili. Quello c'ha solo l'indispensabile, cucina non mi serve, male che vada c'ho un cucinino piccolino di quelli che me ne mangi fuori e non mi interessa. Per cui quello che serve a me ce n'è per i pulci. Vediamo se c'è qualcuno qua che vuole entrare sul canale 10, avanti. Con che radio stai uscendo, Dani, tu? Sono l'IC7000 e di microfono sto usando l'MC60. Alla grande, sta andando benissimo. Segnale, come arrivo dalle tue parti? E oscilli 9,20 secco, però dai picchi di 9,30 anche. Addirittura? Eppure io sto uscendo con un po' più alto, qua sarà una quindicina, non di più. Gli stessi watt stiamo usando, Robert. Non è che questa radio spinga molto di fiume. No, comunque se ti serve qualche verbasso, bastano quelli ad acqua, sempre a gasolio, che dove girano acqua, basta che me lo dici. Cosa vuol dire ad acqua? Cioè? Quelli che scaldano l'acqua. Ah, il boiler stai dicendo. No, si chiama webbasso. questo che c'ho io che senti? Lo senti? Questa è quella d'aria che si piazzano anche dentro i camper. Quello che ti sto dicendo io è quello che scalda anche l'acqua, che serve anche per scaldare il motore della macchina. Ah, ho capito, sì, che usano per i camion, si usano quelle. Sì, mi adesso ti mando una foto. E come mai ce li hai tu questi? Me li sono procurato a lavoro per qua a casa, in campagna. Il gasolio io lo trovo a lavoro, lo recupero a lavoro, no? Quando c'hanno tutti quanti i fondi dei bidoni, io prendo e me lo metto da parte. E me lo uso, me lo filtro e me lo uso qua nel verbato a riscaldarmi. Almeno sempre un po' la casa. Dimmi una cosa, è grande, è ingombrante? No, è piccolo, fai che sia, esagerando, 40x10x15. Dammi la fotografia, voglio capire di cosa stai parlando. No, quello che sto dicendo io sono quelli a gasolio che ti come si chiama? C'è un tipo motore a scoppio mio, una cosa del genere, piccolino, ma proprio un minion, c'ha la marmitina sua, piccolina, lo metti sotto nel pianale del camper, e poi ci sono le condutture, ma fa un calore allucinante, cioè non ci puoi stare dentro il camper, lo devi tenere col termostato, se no ti sciogli. Già lo so, mi lascio, ti invio la foto, e un link ti invio. Direttamente la pagina di Google, così vedi quale ti sto dicendo. Allora c'è questa persona, quello che ti ho nominato io, quello ne sta prendendo, gliene abbiamo consegnato uno sabato mattina, è venuto, lui ce l'ha già, ne ha poco mi sembra di questi mezzi, ma lui li vende, li affitta tutte le settimane, è già partita la stagione, vengono, normalmente sono olandesi, tutta quella gente lì del Belgio, ma la maggior parte sono tutti olandesi, qualche tedesco, li ha tutti allestiti, io vedo cosa li mette dentro questi qua, infatti, ma cosa di Napoli? No, li vuoi, poi per dire vogliono le biciclette, tu non hai cosa affitta le biciclette elettriche, a parte quanto affitta il camper, completo di tutto, poi con la cucinetta dentro, lavandino, i pannelli solari, un po' li ha fatti trasformare, il tetto l'ha fatto di quello telescopico, tipo Westfalia, che si è fatto un matrimoniale sopra, per guadagnare altri due posti. Sì, già ho capito quello che mi stai dicendo, il modello. No, comunque questo qua, questo termotop verbasso, un giorno me lo sono piazzato in garage e ho attaccato un termosifone di quelli da casa, più la bacinella, perché vaschetti non ne avevo, la bacinella più la pompa e tutto quanto, per la pompa per far girare l'acqua. L'ho collegato, in giro di 5 minuti c'avevo già l'acqua col vapore. L'acqua col vapore più o meno erano 100 gradi, perché quando inizia a bollire sono 100 gradi, e il termosifone era impossibile toccarlo. Ho lasciato un bel po' acceso, aveva, stava emanando talmente di tanto di quel calore questo termosifone che non faceva manco a toccarlo, manco avvicinare la mano, perché dal calore che stava spingendo. Ma fammi capire una cosa, tu questi li hai recuperati da mezzi, da camion? Ah, questa qua ce li hanno Mercedes, le macchine monovolume, le furgoncini, però di quelli piccoli, le nuove macchine tipo, come si chiamava? No, adesso mi viene il nome. Comunque la maggior parte ce li hanno tutte quante Mercedes, le Lancia, quella Lancia gigante, che non mi ricordo mai come si chiama, Lancia Fedra, se non sbaglio, che rimane un bel grande, sembra un furgoncino. Sì, la Lancia Fedra, ma io non ho capito una cosa, questo viene alimentato a gasolio, ora c'è un motore tipo quelli di bruciatori di caldaia, così funziona? Sì, c'ha la stessa funzione, se guardi nella terza foto, c'è proprio la macchina, il verbasso diviso in due con tutto quanto come funziona, al centro c'è il bruciatore che aspira aria e dopo la parte il monossido di carbonio esce da un'altra parte, che poi nella camera successiva passa l'acqua, come passa l'acqua scalda, invece questo che c'ho io qua in poche parole funziona, anziché passare l'acqua passa l'aria. Io ho sbagliato a prendere l'aria da fuori e portarla dentro, io devo fare l'aria da dentro e riportarmela dentro. Ho sbagliato facendo un buco, non l'ho messo, però già scalda lo stesso, l'aria a 70 gradi e più già me la butta fuori questo qua. Infatti l'ho provato anche col termometro, il termometro che faccio io, quelli digitali arrivano a 70 gradi, li ho provati due, anzi tre, ne ho provati, tutti e tre a 70 gradi hanno scritto H, quindi spinge molto più di 70 gradi. E questo funziona a gasolio? C'ha una pompa che sta sempre spingendo, pic pic pic pic, e spinge il gasolio, proprio il tanto che serve. So che questo qua serve tutto quanto l'armamento per farlo funzionare. Però se vuoi, da un'ambulanza, vabbè che l'ho anche pagato poco, ho recuperato un riscaldamento che c'ha la ventola, radiatori, puoi mettere anche il radiatore del condizionatore dell'aria, per raffreddare l'aria. E c'ho tutto quanto, c'ho il display, il relay, tutto quanto c'ho. Allora, questo qua tu lo usi a casa tua, voglio capire, a casa tua lo usi per riscaldarti il termosifone? No, questo io l'ho usato una volta, ma in garage. Io quello che sto usando a casa è quello che butta l'aria calda, che spinge l'aria calda, tipo il boiler che si trova nei nuovi camper, che fanno acqua calda e aria calda. Io sto usando questo qua adesso, che spinge solamente l'aria calda. Ho capito, come quelli che stiamo montando noi nel camper, e funziona a gasolio quelli però. Sì, fa mezzo litro ora, al massimo a 5 watt, anzi a 5 kilowatt. A 5 kilowatt fa mezzo litro a ora. Sì, ma dico, i fumi dove li fai uscire tu? Fuori, c'è la marmita sua, con più o meno, quanto sono, 50-60 centimetri di tubo, e spinge il fumo fuori. Ovviamente il verbato ce l'ho tutto quanto chiuso dentro una scatola di metallo, che ho procurato a lavoro, e ce l'ho tutto quanto lì, serbatoio, verbato, e la marmita c'è un buco che esce fuori l'aria fuori. L'aria, i fumi fuori escono. Il problema sono lo scarico di fumi, dipende dalla casa che c'è, come ce l'hai disposta, perché a casa mia sarebbe un problema, ma tu vuoi scaldare solo una stanza o il corridoio. No, con questo ad acqua già riesci a scaldarli, perché lo metti tipo così nel poggiolo, in modo che i fumi li porti fuori dal poggiolo anche, se no ti esce la macchia nera dalla sporcizia del gasolio, e i tubi che vanno ai termosifoni. Però riesci a scaldare fino a 2-3 termosifoni, esagerando, non di più, perché questi qua lo stesso sono da 5,3 kW o 5,5, non me lo ricordo adesso. Comunque anche no, 5 kW il sono, però già scaldano forte anche loro. Se ti scalda il termosifone va bene, cazzo, però se te la scaldano soltanto, non lo so se ne vale la candela a farlo, ma se te la scalda almeno 2 o 3. Però vogliono messi a pompa separata, non vogliono messi tutti quanti in serie, anzi in parallelo, no in serie, no, vogliono messi tutti quanti in parallelo, perché ogni radiatore deve prendere l'acqua calda direttamente dalla vasca che spinge il verbasto. Cioè tu ti attacchi direttamente al termosifone, se c'è un termosifone grosso, per dire, io la camera da letto mio è grande, sono 40 metri di camera da letto, se ci metto no 40 metri, quando diciamo una trentina di metri quadri sarà la camera da letto mia, che va un po' di freddo perché va attaccare la pompa di calore, io ho i termosifoni, però sono come si chiama, condominiali, non ci siamo messi d'accordo, alla fine abbiamo bloccato tutto, ognuno si arrangia, però se si mette separatamente di lì, gli attacchi uno solo il termosifone, devo mettere attaccato a un unico termosifone al verbazzo. Sì, lo puoi collegare anche direttamente a quel termosifone. L'importante è che metti un ingresso che fa dal verbazzo al termosifone e un'uscita che va direttamente al serbatoio, che dopo dal serbatoio va a prendere l'acqua al verbazzo. Bisogna fare anche un accumulo dell'acqua. È un serbatoietto dove ti fai 5, esagerando 10 litri, non più grande, se no ci mette molto di più a scaldare. Vabbè, quando sarà me lo fai vedere. E tu ne hai diversi di questi? Ne ho due, uno me lo sono conservato per me, per sicurezza, e in più ne ho un altro di da parte, no. E poi mi dici cosa ne vuoi, ci mettiamo d'accordo, eh? E qua facciamo il prezzo che c'è scritto. No, vai, scherzo, no, dai, già ci mettiamo d'accordo, cominciamo. siamo sempre messi, da. E ci mancherebbe, non ci sono problemi. Voglio capire esattamente il funzionamento, quando c'hai un attimo di tempo, magari passi in officina, mi fai vedere sulla carta e capire esattamente di quello che stiamo parlando, anzi che stai parlando, perché quello che mettiamo noi è per produrre aria calda, nel senso tu metti, però questo dei termosifoni non so che ce li hanno le macchine, perché è capitato diverse macchine, quelle grosse, le monovolume, però voglio capire la logica di funzionamento. Beh, aspetta, io ti invio un video di come funziona questo qua che ce l'ha piazzato in casa, aspetta che ti invio un video. Capo. Vediamo su 10, scala 10, c'è qualcuno che vuole entrare? Io mi sto ascoltando con passione. Chi sei? Ciao, sono Cristian. Sì, ciao Cristian, mi senti tanto a te. Ciao Cristian. Io mi sto ascoltando, con passione, sto ascoltando. Così mi scaldo anch'io in macchina. In Russia invece c'hanno le bombe di moto per scaldarsi. E invece in macchina il sedile che scalda e vibra anche, e fa massaggi. Il sedile? Che vibra, che fa massaggi e scalda anche. Ah, Gussi, che macchina è? Una Fiat Punto. Una? Una Fiat Punto. Mi sento un po' disturbato, ti porti appresso il correme, il segnale ce l'hai, sei 8, però c'è sempre, quando parli, un po' di fruscio. Una Fiat Punto? Sì, sì, no, ho capito Fiat Punto, adesso sei arrivato 9,5. È l'unica che era appunto, che si chiama senile, che fa massaggi, l'unica, Sassari. Ma lo dici veramente o stai scherzando? No, amico mio, c'è una macchina veramente, però un Mercedes che c'ha i sedili che ti fanno i massaggi, poi quando fai la curva ti si gira e ti avvolge, per dire, fa la curva a sinistra e ti abbraccia a sinistra, la fai a destra e ti abbraccia a destra. Ma perché il sedile l'ho fatto io? L'hai fatto tu il sedile? Sì, sì, l'ho fatto io. E cosa gli hai messo? Un sedile, una poltrona? Non so posso dire che fa massaggio. Che cosa sei tu, Cristian? No, perché ho fatto sopra. Chi è avanti? Sì, te lo sto inviando il video. Salva. Però lo devi sentire. No, beh, che è eccezionale, guarda. Metti qui i massaggi, fanno comodo. Un altro, almeno vedi più o meno com'è il disegno complessivo dell'impianto, là. Ma teoricamente si potrebbe fare anche una cosa, secondo me, guardando il video, prendendo quei termoconvettori, quelli che hanno l'acqua dentro, e attaccandoti a uno di quelli e lasciando, per dire, con un tubo, tipo quelli stabilatori, quelli che hanno nelle macchine, ne hai mai visti? Che hanno il tubo in gomma e lo attacchi col tubo in gomma. Sì, anche così si può fare. Anziché trasformarti, modificarti l'impianto di casa, magari è troppo complicato, devi ti fai quei tubi di alta pressione per l'aria calda, per l'aria calda, per gli idraulici, e ci metti l'acqua dentro, te lo metti in un punto, il motorino te lo metti in terrazzino. E anche il tubo di rame normale puoi mettere, oppure i tubi nuovi, quelli in multistrato, tanto la temperatura quelli non li scioglierà mai. Infatti non è che arrivi più a 80 gradi, se no va in ebollizione l'acqua, sarà io penso 70-80 gradi massimo la temperatura di esercizio. Sì, infatti quella lì è la temperatura normale, solo che molti attaccano il computer con tutto quanto lo strumento e balle varie e fanno salire proprio al massimo della potenza il verbasso e lo fanno arrivare anche a 100 gradi. Solo che a 100 gradi l'acqua inizia a bollire e se ne va via tutta, quindi non conviene neanche. Ah, è esagerato, cosa ne va? Là deve metterci il liquido anticongelante, quello per i radiatori, che arriva a 120 gradi, aumenta il grado di ebollizione dell'acqua, ma guardate la futi, tanto i termosifoni se sono a 60 gradi già sono caldi, cosa devi fare? Cucinare frittate. No, ma anche a 50 gradi, 40 gradi iniziano a scaldare bene. Tanto se c'è una fonte di calore che c'è sempre fissa a 40 gradi, l'aria piano piano te la scalda, non c'è bisogno che ci siano per forza un coso che emana a 100 gradi, perché poi alla fine non serve a niente, ti scalda molto la casa e ti brucia l'aria anche. Certo che sì, ma tu dimmi una cosa, il gruppo di dove hai alimenta questa roba, diciamo, il cosiddetto webazzo, tutto lo tiene dentro casa, le metti, c'è un serbatoietto per il gasolio. No, io dentro casa non ho niente, io tutto quanto fuori. Ah, tutto fuori, e poi c'è il tubo che te entra dentro casa, il termosifone. No, non è termosifone, esce direttamente il bocchettone dell'aria calda. Mi aspetti, faccio un video, almeno lo vedi com'è. Ciao, vai Cristian. Lo sto ascoltando così, ma te stai fermo fuori da casa, vediamo cosa posso fare, dai. Ciao. Vediamo se c'è qualche donato sul 10 qua che vuole entrare. Canale 10, avanti con la buonasera. Dottore, non è 95, ma solo per Mickey Game in esca, non so perché. Adesso sei salito al 9 più 15, ti sei avvicinato? E da niente. Adesso se ti ascolto molto bene. No, Evo, prima sono nel 95, come sollevo per Mickey Game a manetta, mi innesca, va in esca, non so perché. No, no, va benissimo, a livello microfonico va bene, non tocca nulla, va benissimo. Ce la fai per il minimo? No, la parte mia, Radio 5, è bella chiara. Ma lo tenere così al minimo, se no mi innesca, non so perché. Lo so, devi avere se c'è stazionario, perché stazionario molte volte creano problemi, lo sai. E non è compatibile con quell'apparato, molto probabile. Poi naturalmente devi avere anche l'impedenza del microfono, della capsula, molte volte l'impedenza può essere non compatibile, magari troppo alta, non lo so, o in questo caso troppo bassa, probabilmente se innesca. Oh, guarda, lascio così e va bene, sono contento, guarda. No, io ti ascolto perfettamente, mi immagino mi ascolti anche tu, perché io sono in antenna esterna, mi immagino anche tu mi stai ascoltando bene. Alla grande, sempre come al solito, bene, pulita, perfetto. Cappa, vediamo se è rientrato Danilo. Sono sempre qua, ti sto inviando il video e ci sto mettendo un pochino. Però non ti spaventare, che mi sono allontanato anche un pochettino. Cappa, non problema. Esci che altrimenti esce, che poi prendo due tazze di spesa al volo, esci. No, questo è che ti scalda l'aria, invece quell'altro si scalda direttamente un termosifone, e il termosifone alla fine quando a raffreddare ce ne vuole, soprattutto se è in ghisa. Tu come ce l'hai in ghisa? Penso di sì. No, i miei sono in alluminio. L'alluminio scaldano, cioè raffreddano più in fretta, nel senso la temperatura di esercizio la raggiunge più in fretta della ghisa. La ghisa c'ha di buono che te la mantiene, magari ci piega di più a scaldare, però te la tiene di più la temperatura anche quando è spento per qualche tempo in più che c'è a tenerla, però non è lì sul problema, l'importante è che riesca a alimentare e che ce la faccia. E tu hai detto consuma mezzo litro a ora questa storia? Mettendo la 5 kW come ce l'ho più sempre fisso io ce l'ho a 5.3, a 5.3 diciamo, che sta spingendo il verbasso e volendo lo posso anche abbassare, e no, sollevare a 5.5, sollevare anche a 5.5 e aria calda ne spinge abbastanza, proprio bella calda bollente, poi te lo indica anche lui la temperatura. Tu pensa che quando la temperatura mi dice che ci sono 25 gradi e qua su ne ho 25.6 e qua ne ho lo stesso 25, tutto quanto a 25. Fammi capire, ma quanti ne hai piazzato in casa tua? Spesina, dai. Quanti metri è casa mia, in totale? No, quanti ne hai piazzato di questi verbazzo? No, non ti ho capito, quanti? Quanti ne hai piazzato in casa tua di verbazzo? Uno solo o più di uno? No, che scaldano queste due camere solamente uno, perché la stufa a libro, entrami a libro, la stufa a pellet qua giù non ci arriva, magari. E ce l'hai, esterno a casa l'hai fatto un condotto per entrare l'acqua nella parete? Con una punta a tazza ho fatto il buco nel muro e sono entrato con il tubo da 80. E ti riscalda bene l'ambiente? Non è che stai proprio bene bene bene, però in queste due camere che ci sono qua davanti, in camera di mia figlia che più o meno è da qua lì, ho calcolato l'altro giorno, erano 3,60 m se non sbaglio, o 3,40 m, vabbè 3,40 m, poi c'è stata davanti all'altra camera di mia figlia che sono più o meno 5 metri, arrivare all'altro muro, e 13 metri quadri di camera, e l'altro giorno, la maggior parte delle volte è sempre 20-22 gradi, ed è distante da qua, e più come l'aria passa da questa camera all'altra camera, c'è anche un pezzettino di corridoio che va nelle altre camere. Sì, interessante il discorso, ma c'hai un termostat, un timer per bloccarlo, come fai tu a gestirlo? Tutto quanto da questo display riesco a comandare, c'ha il display con tutti quanti i comandi. E aspetta, te lo faccio vedere, no? Ti faccio una foto di questo display. Ma il display te lo sei messo all'interno della stanza? Sì, quello lì deve essere per forza dentro casa. E da che mezzo l'hai preso tu questo? No, questo qua l'ho comprato direttamente da internet. Ah, non è di quelli recuperati dalla macchina, no? No, questo che spinge l'aria calda, no. Quelli che ho recuperato sono quelli che fanno acqua calda. Sì, sì, ho capito. E quindi, come sono più o meno quelli che fanno l'aria calda, sono come quelli che noi utilizziamo nell'officina, mi pare costino. Allora, lui li avrà presi dalla Germania, li avrà pagati una cifra assurda, completo di tutto, di gestione, e poi su internet, quelli cinesi, identico, proprio uguale, sputato, e anche quello cinese ci aveva un paio di accessori in più, perché gli ha dato le fascette, altre cose per montare, costava meno della metà, mi sembra, non ti voglio dire fesserie, possibile che costi sui 160 euro? Questo che spinge l'aria calda, sì. Quello cinese costa così poco, poi quelli originali tedeschi costano molto ma molto di più. Però Robè, tu cosa vai a spendere? Tanti soldi per avere una cosa che non è che sfrutti proprio al 100%, non è che ci devi dormire insieme a lui. Fa la stessa lavoro e spendi poco. Però intanto la maggior parte è quello che consumi e quello che brucia la macchina, è tutto lì. E certo, infatti lui il primo l'ha preso di quelli, forse c'era quel basso originale, ha pagato più di 500 euro, se ne ha mangiato le mani, poi ha ordinato l'altro 160 o 170, è identico, tu mi dirai sarà un clone o quello che vuoi, però il funzionamento l'avete sui costi. Sì, c'è la stessa funzione alla fine, magari avrà qualcosina nel comandi di diverso, che poi entri dentro l'impostazione e te l'imposti tu come ho fatto io. Che però io ho aumentato la velocità della ventola da 1255 giri al minuto, l'ho portata a 1300, che sembrano pochi, però con la spinta dell'aria che dà è molto forte. Te l'hai messo fuori il terrazzino, ho visto il coso, hai fatto un buco nel muro, un tubo. È il tubo originale che tira nel kit. Perché ti danno due tubi da 80, di quelli in alluminio che sono insensibili, e 2 metri di tubo di gasolio, e poi la pompa del gasolio, il serbatoio da 15 litri, la staffa, il tubo della marmitta e la marmitta, e tutte quante le fascette per stringere i tubi. Ma l'hai fatto una casetta tu, qualcosa per coprirlo? Aspetta che non ti ho capito Robert, che c'è mia figlia che mi sta parlando. Gli hai fatto una specie di contenitore per tenerlo dentro, protetto dalla pioggia? Sì, ho fatto una scatola in ferro, una di quelle, di quei contenitori in ferro, tipo quelli dell'Ener. Uno di quelli, aspetta un attimino. Quello è il profumo. Uno di quei contenitori e ho piazzato tutto quanto lì dentro. E il serbatoio ti ha lasciato da 15 litri o l'hai preso più grande? Ripeti Robè che c'è la mia figlia che non ti ho capito, che se n'è andata adesso. Ma sto uscendo male di radio, Dani. No, è che lei che c'ha la voce un pochino alta, non riesco a capire quando mi parla. No, pensavo fossi distorto io, troppo forte. No, dicevo, hai fatto questo contenitore e il serbatoio ha lasciato quello originale da 15 litri? Sì, dai, quello lì originale gli ho lasciato. Ah, e ti danno anche il tubo, l'attacco per mettertelo come piace a te il serbatoio, perché il serbatoio lo puoi girare come vuoi, lo puoi mettere anche coricato oppure in piedi col bocchettone in su oppure bocchettone laterale, e poi ti danno quel raccordo per fare il buco e dopo ti raccordi con quello sul serbatoio per attaccare il tubo. Scappa, noi quando il serbatoio non lo utilizziamo perché ci attacchiamo direttamente alla cosa, al serbatoio della macchina, diretto, c'è la pompa che aspira da lì, si fa un bypass, lo faccio. No, volevo dire, insomma è passato di mente, il serbatoio, l'alimentazione a quanti volt è? A 12 volt, però esiste anche quello da 14, da 24, solo che non ne vale la pena quella 24, perché a cercare un alimentatore da 24 è un casotto. E tu gli hai messo un alimentatorino normale di quelli di barattino per alimentare? No, l'alimentatore di quelli dei computer, quello ne ho preso, ne ho procurato uno da, mi scordo, cioè 14 o 17 ampere, e gli ho piazzato uno di quelli. E così grosso? Assorbe mi robe quando parte. Come quando parte? Non c'è una ventolina, devi solo alimentare la pompa di dimissione del carburante e la ventolina di raffreddamento. In poche parole c'è anche la candeletta che dopo deve scaldare. C'è una candeletta all'interno del bruciatore che, come lui spruzza il gasolio, la pompa spruzza il gasolio, la candeletta se non è bella rovente, il gasolio non te lo fa partire, quello è. Sì, ma solo la partenza a questo, poi una volta che è a regime non consuma molto. No, qua come tensione sono a 10,8-11. 10 ampere consuma? No, di volt. No, di ampere non me lo ricordo. Comunque c'è un fusibile che è da 15 ampere, originale. Per l'accensione potrebbe scaldare la candeletta. Dopodiché che a regime, che il gasolio è già acceso, sta bruciando, non penso che consumi molto, perché se sono 10 ampere è un bel di consumo. E 10 per 2 sono 120 watt di consumo, è come c'è una lampadina a 120 watt. Se lo tieni acceso 10 ore sono 1 kW e 2 di consumo, oltre il gasolio. Sì, quello sì. No, ma solamente all'inizio che assorbe molto. Poi una volta che parte, gli ampere che spinge rallentano. No, se ne consuma molto meno, no? Però interessante il discorso. No, l'amico mio se l'aveva messo in garage diretto, così la marmita un po' fuori, il tubo che scaricava fuori, però messo in casa non è che non ci avevo pensato, però col discorso che hai fatto tu ti fa mezzo litro a ora. In poche parole, Robè, da una parte conviene, solo per chi ha necessità e c'ha l'occasione per il gasolio, poi chi non ha i soldi, diciamo, là, per comprare il gasolio, secondo me non gli conviene, conviene più una tuffa a pellet, però è sempre lì con la canna fumaria, perché se non c'è la canna fumaria non ti puoi mettere manco la tuffa a pellet, quindi devi usare il libro. Se non c'hai tot soldi, perché anche lo zibro consuma, se non c'hai tot soldi manco lo zibro puoi comprarli, perché oggi come oggi un bidone di zibro costa 33 euro, se non sbaglio.